24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Paola Nania e bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa. Il flusso migratorio dal Nord Africa conta altre due vittime. Due donne sono morte nel tentativo di raggiungere via mare l'Europa. Sul fronte politico italiano ci sono le dichiarazioni del premier Silvio Berlusconi, che rassicura sull'impegno dell'Europa nel gestire la situazione. Ci occuperemo anche dell'andamento delle borse, delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale sull'Eurozona e dell'euro sempre fortissimo sul dollaro. Poi un approfondimento su Parmalat, alle prese con il tentativo di scalata francese e con le sentenze che dovrebbero arrivare a breve su quattro banche internazionali accusate di aggiotaggio. È stato fermato, dunque partiamo dall'argomento immigrazione, è stato fermato, dicevamo, lo scafista che era alla guida del barcone con 190 profughi partiti dalla Libia verso l'Europa, incagliatosi ieri mattina all'alba davanti alle coste dell'isola siciliana di Pantelleria. Durante lo sbarco due giovani donne sono morte annegate. Il capitano Vittorio Alessandro della Guardia Costiera lo ha contattato per noi Maria Luisa Pezzali. All'ingresso del porto di Pantelleria, l'imbarcazione, che pure era assistita da una nostra motovedetta, all'improvviso, come purtroppo spesso abbiamo visto accadere, ha scartato sulla sua sinistra e si è diretta verso una zona dell'isola prossima al porto, dove ci sono scogli e spiaggia, e la barca si è incagliata. Questo ha provocato probabilmente grande paura. Si sono gettati in mare, lì dove il mare è alto un metro e mezzo, due. Tutte le persone che erano in porto si sono immediatamente dirette in quella zona e si sono gettate in acqua, i nostri marinai e tutti gli altri presenti, i carabinieri, per salvare le persone che, come noi sappiamo, quelle che provengono da quel paese hanno scarsissima dimestichezza con il mare. Un errore di rotta provocato sicuramente dalle luci male interpretate, dai fanali male interpretati, dalla stanchezza e dall'ansia di arrivare. Sul fronte politico, mentre Silvio Berlusconi in Consiglio dei Ministri assicura sull'immigrazione l'Europa si impegnerà, la Lega torna ad evocare soluzioni drastiche. Dopo il viceministro Castelli sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni l'eurodeputato leghista Francesco Speroni. C'è gente che viene in Italia violando tutte le regole, a questo punto bisogna usare tutti i mezzi per respingerli, eventualmente anche le armi. Sui problemi dell'immigrazione dobbiamo riuscire a trovare soluzioni concordate a livello europeo. Questa è la dichiarazione del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, dopo un colloquio con il Presidente della Repubblica Ceca, Václav Klaus. L'emergenza immigrazione dovrebbe e deve essere l'occasione perché l'Italia abbia una sola voce verso l'Europa, e l'appello invece che è stato lanciato dal Presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco. Secondo il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, per noi italiani, per noi europei, l'Unione è la condizione essenziale per progredire ancora. Per Draghi, l'Unione Europea è un punto di riferimento nel mondo per come ha saputo sviluppare negli anni una forma originale di governo. Ora la pagina economica. Parliamo di Parmalat, presa tra il tentativo di scalata francese e il crack che ha travolto decine e decine di risparmiatori. La prossima settimana la sentenza su quattro banche straniere accusate di aggiotaggio. A quasi otto anni dal clamoroso crack della Parmalat, per i risparmiatori travolti dalla truffa miliardaria architettata da Callisto Tanzi e il suo scaltro entourage, l'incubo non ha fine. La prossima settimana un'altra beffa potrebbe aggiungersi ad una lista già lunga. E mentre i magistrati di Milano sono tornati ad interessarsi alle vicende di Collecchio per il tentativo di scalata della multinazionale francese Lactalis, lunedì prossimo nelle aule di giustizia del capoluogo lombardo tornerà di scena la vecchia storia. È attesa infatti per il 18 aprile la sentenza di primo grado nel processo per aggiotaggio contro quattro banche straniere, cinque loro manager, accusati di aver immesso sul mercato notizie false allo scopo di alterare il valore del titolo della società all'epoca quotata a Piazza Affari, danneggiando migliaia di detentori di azioni. Molti di questi, negli anni, non sono riusciti ad avere indennizi di nessun tipo e vedono nella possibile condanna Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank e Morgan Stanley e loro cinque dirigenti l'ultima spiaggia di un possibile risarcimento. Quale nuova tegola potrebbe abbattersi su di loro? La prescrizione del reato, che nel caso di aggiotare per le persone fisiche scatta dopo 7 anni e mezzo. Quindi se anche lunedì si arrivasse alla sentenza di condanna, per quei manager il probabile ricorso porterebbe in automatico alla prescrizione del reato, vanificando così la speranza per i risparmiatori che in questi anni non si sono costituiti parte civile di rivalersi nei loro confronti. Altro che quel gioiello portato mesi scorsi al cinema. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato nella seduta di ieri il DEF, vale a dire il Documento di Economia e Finanza, e il PNR, il Piano Nazionale di Riforme, previsto dalle nuove regole europee da trasmettere a Bruxelles entro aprile. Nel PNR, sotto il capitolo nucleare, viene ribadita l'esigenza di una moratoria di un anno dopo la tragedia del Giappone con l'incidente della centrale di Fukushima. Un rapporto tra debito lordo e prodotto interno lordo all'85% nell'Eurozona, dell'80% in Germania e del 119% in Italia. Queste le stime per il 2010 del Fondo Monetario Internazionale, stime diffuse durante i lavori primaverili in corso a Washington. E ora gli aggiornamenti come di consueto sull'andamento delle borse. Seduta positiva per le borse europee che ieri hanno recuperato parte delle perdite accumulate nel corso della settimana. Parigi e Londra hanno guadagnato lo 0,7%, Francoforte l'1%, mentre a Milano FTSE MIB e All Share sottotono sono avanzate solo dello 0,3%. A Piazza Affari in particolare hanno pagato dazio ai finanziari con Fonsai sotto dell'1,7%, Popolare di Milano meno 1,5% e Monte dei Paschi di Siena dell'1,35%. La banca di Rocca Salimbeni, dopo il rimbalzo di martedì seguito all'annuncio dell'aumento di capitale e del nuovo piano industriale, è stata dunque colpita dai cosiddetti realizzi. Maglia rosa del FTSE MIB invece Pirelli più 2,6%, promossa dagli operatori dopo l'annuncio dell'aumento dei prezzi degli pneumatici da giugno in Europa, Medio Oriente e Africa. Ciò Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Euro ancora in rialzo sul dollaro in un mercato che punta su un nuovo aumento dei tassi della Banca Centrale Europea, con l'inflazione in Francia schizzata ai massimi da 2 anni. Nel corso della seduta la moneta unica è salita fino a 1,4520 sul dollaro, toccando i massimi da gennaio 2010, prima di ripiegare sul finire degli scambi in Europa a 1,4485. Una difesa a tutto campo dell'operato del suo governo, un attacco alla Francia che non rispetta la libertà di religione e un invito rivolto all'Unione Europea a comprendere l'importanza che l'adesione della Turchia può rivestire per la stessa Unione. Queste le linee seguite dal primo ministro turco Erdogan durante il suo discorso davanti all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Con il nostro governo abbiamo dimostrato che Islam, secolarizzazione e democrazia possono convivere, ha detto Erdogan. Sono giunti alla corte d'assise di Locri, in Calabria, passiamo dunque alla cronaca, i video registrati dalle telecamere poste nei pressi del ristorante Da Bruno a Duisburg. Il ristorante fu teatro della strage di 'Ndrangheta in terra tedesca. Nel ferragosto del 2007 furono uccise 6 persone nell'ambito della faida di San Luca. E ora a Milano per la seconda giornata del Salone Internazionale del Mobile, punto di ritrovo dei designer di tutta Europa. Più di un designer, sostengono molti. Per alcuni un maestro, per altri un visionario, per tutti semplicemente un fenomeno. Milano celebra nella settimana del Salone del Mobile l'eclettico Karim Rashid con una mostra personale inaugurata ieri alla presenza dell'artista stesso in triennale. Il capoluogo lombardo omaggia così uno dei nomi più luminosi del panorama artistico contemporaneo e lui, egiziano di nascita, canadese di nazionalità ma ormai americano d'adozione, non dimentica certo l'Italia, paese in cui ha studiato da ragazzo e in cui ha più volte lavorato. Italy, un paese e gente incredibile. Sai perché? Nel nostro di tutti gli italiani c'è un artista dentro. Questo è nella DNA, you know? E c'è un poetica, you know, every Italian is like the Renaissance. Fino a domenica 17 aprile i visitatori potranno ammirare su una superficie di oltre 400 metri quadri le straordinarie creazioni di Karim. Centinaia di oggetti caratterizzati da forme morbide e avvolgenti in quello che lui stesso non ha esitato a definire minimalismo sensuale. Una concezione nuova di design che ha lasciato un segno indelebile e tracciato una nuova strada. Fabio Pisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E ora la pagina del calcio. Ci avviciniamo all'atto finale della Champions League, la finale di Wembley, in programma sabato 28 maggio. E le semifinali vivranno su un confronto caldissimo. Il derby spagnolo tra il Real Madrid di Mourinho e il Barcellona, grande favorito. Sarà un mese speciale per la Spagna, dato che Real e Blaugrana si affronteranno 4 volte, a cominciare da sabato, quando è in programma il primo scontro in campionato. Poi la finale di Coppa del Re e il doppio confronto in Champions, appunto. La Federcalcio spagnola ha declinato intanto l'invito a partecipare alla Coppa America per problemi di calendario. La Spagna, campione del mondo, era stata invitata a prendere parte alla competizione al posto del Giappone, che pensava di rinunciarvi dopo il sisma e lo tsunami dell'11 marzo scorso. Ora la Federcalcio giapponese sta pensando a prendere parte alla competizione e l'annuncio dovrebbe essere fatto oggi. La Coppa America si svolgerà in Argentina dal 1 al 24 luglio. In chiusura gli appuntamenti europei della giornata. A Bruxelles il commissario ai servizi finanziari e mercato interno Michel Barnier riceve il primo ministro francese François Fillon ed è prevista la presentazione del progetto Wind of the Coast, piccoli impianti eolici lungo le coste europee. A Lussemburgo il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e Pesca. A Berlino l'alto rappresentante per la politica estera Catherine Ashton partecipa alla riunione dei ministri degli esteri della NATO. E per oggi è tutto, si chiude qui il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.